Buona serata, grazie agli amici che hanno organizzato questa occasione di incontro. Sono contento di vedervi così numerosi perché vuol dire che l'argomento in qualche modo ci porta a interrogarci insieme. Lo immagino come un cammino, sono tre incontri, poi in realtà. Per chi non ha potuto partecipare al primo, nel secondo faremo un breve riassunto e così anche al terzo, per dare insomma un po' di continuità anche a chi insomma è stato trattenuto dagli impegni di lavoro o di famiglia. Un cammino che non dovrebbe consistere in tre conferenze o in tre lezioni sull'argomento, ma in un lavoro insieme. I numeri ovviamente sono importanti e quindi impegnativi perché molti di noi fanno fatica a esporsi di fronte a tante persone, quindi qualche volta magari potrà essere un po' difficile intervenire. Ma contiamo su chi invece si lascia intimidire di meno, che rompa il ghiaccio e insomma, immaginiamoci in un'altra posizione, cioè tutti intorno a un tavolo, deve essere un tavolo molto grande perché siete numerosi, guardandoci in faccia e provando insomma, a interagire sulla questione, perché diciamo, no, non è certo un discorso dall'esterno che aiuta, ma è un mettersi in gioco nella prospettiva poi di incontrare i nostri figli. Sono commosso anche confuso dall'affetto e dagli onori con cui sono stato accolto, ma adesso lasciate perdere il professor Veglia. Io sono Fabio e sono un genitore, quindi cerchiamo di parlare tra di noi. Io vi porto un po' di esperienza. Sono più o meno 30 anni che lavoro e faccio ricerca su questo argomento, quindi diciamo. Ho messo da parte un po' di idee, però tutte le volte che ne riparlo qualcosa si trasforma e quindi credo che anche qui tra di noi, insomma, non lasceremo la conoscenza al punto di partenza. All'inizio userò, insomma, il mio ruolo di guida della conversazione perché questo mi è stato chiesto, quindi sicuramente no, prendo la parola per primo per entrare nel discorso, ma appena potete interrompetemi per fare cose diverse. Intanto per chiedermi più chiarezza e più concretezza. Qualche volta magari ci si lascia appassionare da riflessioni, ragionamenti e ci si dimentica dei figli che ci aspettano a casa, che faranno di solito domande molto concrete, molto pratiche e noi dovremo essere pronti a stare con loro. E poi anche per controbattere, per mostrate disaccordo. Questo non vuol dire che ci troveremo necessariamente antipatici o saremo portati a offenderci gli uni con gli altri, ma semplicemente la ricchezza è non pensarla allo stesso modo, se no creiamo un pensiero unico a cui alla fine dobbiamo anche uniformarci perché l'abbiamo considerato tutti giusto e ci spegniamo, insomma, non siamo più noi. La bellezza sta proprio nel confrontarci. E tra l'altro, se ci confrontiamo, nascono idee nuove. E poi, questa è sicuramente la più difficile delle proposte che vi sto facendo, se potete portate qualche frammento di vita in forma di testimonianza. Diciamo, è ciò che trasforma, che dà un colpo d'ala al nostro discorso. Perché lo riporta nella sua essenza e nella sua realtà, che è l'esperienza di persone che si incontrano. È più difficile ancora, ovviamente, rispetto al fare domande o all'essere critici rispetto alle proposte, però se riusciamo, insomma, trasformiamo il nostro discorso in un'esperienza insieme. E questo da adesso in qualunque momento. Quindi non lasciatemi parlare tanto, anche perché me ne approfitto, mi appassionano le cose, e quindi fermate. Detto questo, entrerei direttamente nell'argomento, perché insomma abbiamo già fatto preamboli a sufficienza. pongo dei problemi e poi vi assisto nella soluzione dei problemi, anche se devo incominciare con delle delusioni. Vogliamo parlare per 3 serate di sessualità, e quindi sarebbe opportuno almeno conoscere l'oggetto. In realtà, dopo più di 30 anni di studio, io a tutt'oggi non so dirvi di preciso cosa sia la sessualità. Questo, ovviamente, voi dite perché non ti sei applicato abbastanza, forse anche, però principalmente per le caratteristiche dell'oggetto di studio. Quando si fa ricerca, bisogna subito definire bene una questione. Dove inizia e dove finisce l'oggetto che vogliamo studiare? E la sessualità si ribella a questo tentativo. Usiamo una parola un po' tecnica per dire che la sessualità sta in ogni momento della nostra vita, diciamo che è pervasiva, quindi ci pervade, è in ogni gesto, in ogni pensiero, in ogni istante della nostra esperienza quotidiana. Proviamo a vedere se è vero. Adesso, per esempio, nessuno di noi è impegnato in un'attività sessuale, in questo è visibile in sala, però in realtà ognuno di noi sta vivendo ed esprimendo la sua sessualità e sta dando un'occhiata a come lo fanno gli altri, ok? Nel senso che per poter stare qui dentro tutti insieme dobbiamo essere abbastanza tranquilli sul nostro essere maschi, sul nostro essere femmine, sul nostro essere in transizione, se è un momento in cui tra maschio e femmina non ci sappiamo decidere, ma insomma dobbiamo avere chiarezza sul nostro genere. E poi dobbiamo sperare di essere riconosciuti. Quindi se ci poniamo al maschile siamo contenti quando gli altri ci vedono un maschio, così se ci poniamo al femminile. Questa mattina quando ci siamo alzati ci siamo anche domandati con un implicito, e non abbiamo fatto la domanda proprio formulandola con le parole, come ci saremmo presentati al mondo. Abbiamo scelto dei vestiti, per esempio, un po' perché fossero pratici per fare le cose che avremmo dovuto fare e un po' per dare un'idea di noi anche gradevole, no? Perché è più bello dare in giro per il mondo facendo star bene chi ci sta accanto, no? E allora ho deciso come accostare gli abiti, magari qualcuno si è pettinato, qualcuno si è messo un'ombra di trucco. Questa è sessualità in azione, ok? Non è la sessualità di 2 nudi in un letto che si accarezzano e che fanno l'amore, ma per arrivare in quel letto la sessualità va spesa prima in un modo più ampio, se no più che fare l'amore si tratta insomma di una predazione, no? Come dire, non ti dico neanche chi sono, tu vieni con me e fai sesso con me. Se invece abbiamo una sessualità quotidiana, poi qualche volta si trasforma anche in sessualità agita. Questo per dire che allora, come facciamo a studiarla? Da quale parte partiamo? Allora, se ci interroghiamo possiamo dare delle risposte. Non so, qualcuno dice, guarda, è semplice. La sessualità è evidentemente un modo per riprodursi. E allora studiamola come riproduzione. Bene. Questo tra l'altro è uno dei truccacci peggiori che usiamo con i nostri figli a scuola. No, quando ci chiedono di fare un po' di educazione sessuale, noi gli parliamo dell'apparato riproduttivo. No? Che ha a che fare col sesso. Ma è l'ultima idea di sesso che ci passa per la testa quando vogliamo parlare di sessualità. Mi spiego? Sarebbe bizzarro che qualcuno chiedesse a qualcun altro voi riprodurti con me. Non è un punto di attacco alla sessualità. E sarebbe curioso che si interessasse con passione al suo epididimo piuttosto che all'endometrio. Eppure a scuola ci insegnano tutte queste cose che non ci vede. Ora che me ne faccio? Cioè, se mi piace una ragazza, questo, che servirà mai? E vabbè, comunque resta verissimo che la sessualità ha anche una funzione riproduttiva. Allora noi diciamo, no, ma guarda, la sessualità serve per comunicare, vero. Ma ci sono molte persone che invece, quando fanno sesso, fanno fatica a comunicare. E quindi a volte bisogna mettere insieme 2 cose in un modo difficile. Qualcuno dice, non hai capito, la sessualità è il modo più importante nella coppia per dirsi l'amore, e questo è molto bello, e continuiamo a sperare che sia anche vero, ma tante volte facciamo sesso senza amore, anche se siamo coppie, anche se siamo marito e moglie e così via, no? Quindi, diciamo, possiamo auspicare che tutto questo sia ben connesso, ma la nostra vita quotidiana, la nostra fragilità, il nostro essere in cammino e anche un po' poveri, a volte smarriti, spesso non ci restituisce questa idea della sessualità. Ecco, questo è un punto di partenza spiacevole, un po' deludente, però per certi versi ha il suo lato positivo. Questo è un punto di vista, insomma, non è nulla di scientifico. A me non dispiace che la sessualità sia difficile da definire, da mettere in uno schema, perché se ci fosse lo schema noi dovremmo alla fine adeguarci. No, qualcuno dicesse, questa è la sessualità giusta, tu devi adeguarti, io già sarei di cattivo umore, e mi dico, perché? No, sessualità giusta, io sto cercando la mia sessualità, incontrando quella di un altro, e poi vediamo noi, dateci delle idee, delle linee guida, qualche cosa che insomma non ci faccia perdere nelle carezze, però diciamo la difficoltà nel definirla si traduce in una quota di libertà, di creatività, di generatività che noi mettiamo nelle nostre carezze, che tutto sommato non dispiace. Intanto i ricercatori continuano a cercare, ne sapranno magari sempre di più, ma fortunatamente questo oggetto che sfugge diffida delle definizioni, delle etichette e quindi delle norme. Con questo non sto dicendo che ognuno quindi fa quello che gli pare, sto dicendo che conviene interrogarsi, conviene fare delle buone proposte, ma lasciare questo spazio un po' da definire ai singoli, alle coppie, e quindi non entrare negli incontri in modo prepotente con una teoria troppo forte. A questo punto io pongo un problema e devo anche cercare di affrontarlo. Per esempio qualcuno avrà notato qualche assonanza con una teoria importante che a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento ha riportato la sessualità umana alla ribalta anche nel mondo scientifico. La teoria di un genio della ricerca, Freud, che andando in controtendenza ha immaginato la sessualità non come, diciamo, un aspetto marginale e accessorio della vita umana, ma come uno dei principali motori organizzati. Io non sono un freudiano, non seguo quell'ipotesi, però esprimo gratitudine a Freud che ci ha permesso di riparlare della sessualità in questo modo. Poi ho preso tanta distanza da quel punto di vista, come tante altre persone, quindi non entreremo nella prospettiva psicoanalitica, faremo un discorso molto più piano e molto più accessibile. Però, ecco, quel punto di vista ha riportato la sessualità al centro, e poi forse ha anche un po' esagerato nel renderlo così fondamentale per il nostro modo di essere persone. E allora volevo, insomma, concludere questa prima riflessione con questo gioco di parole. È vero che la sessualità sta in ogni nostro gesto, ma non è vero che il senso di ogni nostro gesto può essere ricondotto alla sessualità. Non è vero che il sesso spiega ogni cosa della nostra vita. Questa è una forzatura interpretativa che tenderemo a rifiutare e a conservare invece l'illuminazione, l'intuizione di una sessualità che davvero dà sapore, dà colore e anche un po' di luce a ogni momento della nostra vita. Altri importanti motori della vita si accostano alla sessualità. Voi dite, perché ci fai questo discorso? Per togliere i discorsi sulla sessualità agli specialisti e per riportarli in casa nostra. Qualunque siano le nostre conoscenze, i nostri studi, le nostre competenze, dobbiamo poter costruire, testimoniare e trasmettere un buon discorso sulla sessualità senza per questo avere studi profondi nei modi interpretativi di alcuni specialisti. Okay? Agli specialisti daremo poi il loro spazio. No, qualcosa di buono lo faranno, ci daranno una mano, soprattutto in certi passaggi un po' complessi. Però la vita sessuale di papà e mamma e la vita sessuale dei bimbi che crescono, che poi diventano adolescenti e poi ci lasciano e da adulti ricostruiscono a modo loro, beh, quella vita sessuale deve essere riappropriata perché diventi testimonianza e racconto. Questo è il senso principale. Quindi non sentiamoci intimoriti se ci sono modelli esplicativi cosiddetti scientifici che ci sembrano inaccessibili. Non sono essenziali, possiamo fare un ottimo discorso anche senza fare riferimento a questo. Se è così difficile da studiare, l'unica soluzione è usare un paio di trucchi. Io adesso vi propongo i due trucchi che in questi anni ho cercato di usare per affrontare un oggetto che sfugge al nostro tentativo di conoscerlo. Quando dico trucchi non intendo imbrogli, dico sistemi per fare lo stesso qualcosa di difficile, avendo ovviamente consapevolezza che ci sono dei limiti nell'uso di questi sistemi. Quando una cosa è troppo complicata, un primo modo che ci viene in mente è dividerla in parti. E noi faremo così, useremo un metodo antico che è, se il sesso da capire tutto insieme è troppo difficile, dividiamolo in pezzi. Poi vedrete, adesso vi proietterò una mappa che ci aiuterà poi a orientarci, vedrete che questi pezzi io li ho chiamati dimensioni, ma perché poi quando si parla in giro bisogna anche trovare delle parole che sembrano più adatte. Se vado a un congresso e dico pezzi, pensano che io non abbia studiato tanto, se dico dimensioni pensano che sia una cosa importante. Non sempre pezzi, insomma, non è che cambia di tanto. E questi pezzi hanno una caratteristica, sono arbitrari, cioè abbiamo deciso noi come dividere la sessualità, quindi non sono veri, sono solo verosimili, ok? E servono un po'. Tra l'altro, mentre vi dico questo, abbiate pazienza, vi devo dire un'altra cosa difficile ed è anche una cattiva notizia. In queste tre serate non vi dirò nulla di vero, perché il vero è una cosa seria e io non sono capace di trattare questa cosa seria con gli strumenti di cui sono dotato, gli strumenti della ricerca, ok? Il vero lo cerchiamo con altre domande, le avvicineremo tutte, ma le risposte saranno personali. Okay. E qualcuno sì ci ha detto, io sono la verità, e ci chiede di fidarci, quindi il vero lo avviciniamo con la fede. Non con la ricerca scientifica. Con la ricerca scientifica ci avviciniamo semmai al verosimile. Non chiedete alle cose che dico nulla più che siano verosimili, ok? E poi sono convinto che ognuno di noi dirà verosimili, d'accordo, ma voglio qualcosa di vero. E c'è qualcosa di vero. Ma lo dobbiamo cercare in un altro modo e tenere anche ben presente, ci sta a cuore, d'accordo? Vedremo poi di mettervi in conto. Dunque, questi pezzi sono verosimili, tra poco ve li faccio vedere. C'è un altro problema da affrontare e quindi uso un altro trucco. Se io fotografo la sessualità, anche uno solo di questi pezzi, per esempio la riproduzione di cui parlavo prima potrebbe essere un pezzo, ma la relazione potrebbe essere un altro pezzo, ora li vediamo. Se io li fotografo, non restituisco quasi nulla di ciò che volevo conoscere. Perché è indispensabile studiare la sessualità in movimento. La nostra sessualità cambia, cambia giorno per giorno, cambia nelle stagioni della vita e cambia perché si mette in relazione con altre vite sessuali che la scompigliano un po', la turbano. E poi da questo turbamento nasce la meraviglia degli incontri. Allora, se noi facciamo una teoria della sessualità e spieghiamo così la sessualità ai nostri figli, siamo dei traditori della parte più bella e più ricca del sesso, che è non stare mai fermo, essere sempre in movimento e sempre in cambiamento. E allora dobbiamo trovare un tipo di trucco che ci permetta di leggere l'evoluzione della sessualità. In realtà noi useremo due tracce evolutive. Una è una traccia, se volete, apparentemente un po' lontana dalla nostra vita quotidiana, perché è la traccia che ci mostra come la sessualità si è organizzata nella storia della vita, proprio nella storia del mondo. Quindi partiamo da molto lontano, ci spendiamo 2 minuti, poi torniamo a casa nostra. E l'altra traccia invece è come la sessualità è cambiata nelle nostre vite. Vi piacciono le parole difficili, ve le dico, ma è la stessa cosa che ho detto prima. La prima traccia, quella della sessualità che cambia nella storia della vita, viene chiamata filogenesi, mentre la nostra storia viene chiamata ontogenesi. Dimenticate le parole, era solo per dire. Sono, diciamo, le due discipline che studiano queste due tracce. Ontogenesi vuol dire il movimento del mio essere, quella persona lì. Si assomigliano, questo è curioso, interessante. Non hanno tutti i punti in comune, ma le nostre vite sembrano ripercorrere la storia della vita. Sembrano essere quasi delle metafore, come se ogni nostra vita riprendesse tutto l'essenziale. Su questa visione però dobbiamo fare una piccola fatica. Questa visione prevede, questa della filogenesi, no? della sessualità che viene da lontano, prevede di metterci d'accordo su un punto. Dentro le nostre cellule c'è un'informazione meravigliosa che è la sapienza della vita nella storia del mondo. Ed è tutta scritta lì, con poche molecole messe e organizzate tra di loro, capaci di dire, per esempio, al nostro corpo come deve formarsi. E capaci di fare una cosa ancora più complessa, che dire al nostro cervello come deve organizzarsi per funzionare. Questa sapienza si chiama codice genetico. E il codice genetico informa le nostre cellule e dice loro come mettersi insieme l'una all'altra, no? E farci diventare quelli che siamo. In questa sapienza c'è la memoria di tutto ciò che di più bello è stato fatto nella storia del mondo. E vuol dire che allora la nostra sessualità porta dentro di sé la memoria biologica di sessualità molto più antiche. E se facciamo un po' di attenzione, questa memoria biologica si esprime ancora oggi nelle nostre vite. Tra un attimo vi racconterò una storia di una ragazza per farvi vedere come è presente nelle nostre storie una traccia antica, antica di milioni di anni, ma potentissima. È la traccia che ci dice: cerca qualcuno per riprodurti con lui. Non dite, abbiamo appena detto che non si cerca nessuno dicendo di riproducerti con lui. Beh, ma se siamo un po' storditi, facciamo proprio così. Non abbiamo più tanta consapevolezza di ciò che sta succedendo. Per esempio, siamo troppo bevuti o un po' fatti, come dicono i ragazzi, e non abbiamo più i sistemi nuovi, quelli che ci dicono sta attento, aspetta, dagli un senso. Lasciamo che si mettano a funzionare i sistemi antichi, che sono scritti dentro di noi, pronti a partire. E in quel caso funzioniamo più o meno come funziona un serpente. Voi dite, ma noi non siamo serpenti. E invece sì, noi siamo anche serpenti e per fortuna. Quando per esempio state per attraversare la strada e al margine estremo del vostro campo visivo sinistro un'ombra si avvicina velocemente al centro del campo visivo, cioè si dice, vedo una cosa con la coda dell'occhio, ok? Voi molto prima di fare un ragionamento fate un passo indietro. Fate un passo indietro ancora prima di avere paura. Difatti la sequenza è ombra che si avvicina, passo indietro, paura e poi, ma guarda questo qua, con imprecazione connessa. Okay? Questo è il ragionamento, che è l'ultima cosa lenta, qualche decimo di secondo. La prima è velocissima, millesimi di secondo. Okay? Chi vi ha salvato la vita? Il serpente che abita in noi. Quella parte di cervello antica che è organizzata da milioni di anni per fare un passo indietro, cioè per scappare di fronte a un pericolo senza ragionarci su. Solo che il serpente dice anche, tutte le volte che puoi tu riproduci. Allora noi dobbiamo dire, momento, non proprio tu, ok? E ovviamente non lo dice con delle parole, ce lo fa fare e basta, mi spiego, perché se no intercettiamo le parole, diciamo, no, ok? E invece è uno che passa all'azione. Ma senza saremmo poverissimi, fragili e moriremmo in pochi giorni, per fortuna che invece c'è. E poi andando avanti troveremo dentro di noi la traccia di sessualità più moderne, ma ancora molto prima di noi. Per esempio quelle dei mammiferi. I nostri cani, i nostri gatti hanno una vita sessuale. E la nostra un po' assomiglia alla loro, ma è diversa. C'è, perché poi siamo ancora di più. E siamo arrivati all'ultima stazione, quella speciale tutta nostra. Però la cosa che io volevo segnalare è che questo non è stato fatto sostituendo, è stato fatto conservando. C'è notizia di tutto ciò dalla ricerca scientifica a partire dall'Ottocento, ma c'è notizia di tutto ciò in un libro che è stato scritto qualche millennio prima, Genesi, ve lo ricordate, dove con una metafora, e non con gli studi sulla genetica, osserviamo un mondo creato da Dio con una logica molto simile. Pensate a Dio onnipotente. Dio onnipotente, nella sua onnipotenza, poteva fare il mondo tutto in un istante. Invece lo fa un po' per volta, un giorno dopo l'altro. Ok? Questa è già una bella traccia. No? Se leggiamo quel racconto, ci dice che ha lanciato un progetto. Poi è raccontato in giornate, no? Certo, per chi crede nella creazione, non tutti ci credono ovviamente, no? Ma per chi crede nella creazione, in quell'istante, no? Che cosa succede? Che le tenebre si separano dalla luce, che la luce si separa dalle tenebre, e poi le acque dalle terre e così via, no? E sono tutte metafore per dire, il progetto è lanciato, ma è un progetto in divenire, non è un mondo finito, ok? Quindi questo racconto è nello stesso momento il racconto di una creazione e di una evoluzione. Per chi si appassiona di dibattiti filosofici, nella Genesi c'è tanto il creazionismo, un Dio che crea, quanto l'evoluzionismo, un Dio che crea in evoluzione. E allora che cosa fa Dio? Fa questo mondo e giorno per giorno, guarda, soddisfatto, ovviamente non immaginiamo che sia andata proprio così, però è un modo per raccontare le cose, e dice cosa buona. Passare la notte. Riposa e poi torna a fare un altro lavoro, un'altra giornata, e dice ancora, anche questo è cosa buona, no? Fino a quando manca qualcuno, non più qualcosa, qualcuno che sia simile a lui, e allora poi arriveremo più avanti ad altre notizie su questa creazione. Ecco, sono due racconti completamente compatibili. Poi ci si è messo di mezzo, insomma, il diavolo ci ha messo la coda, e questi due racconti si sono messi a bisticciare tra di loro, come se l'evoluzionismo spiegasse le cose. L'evoluzionismo le descrive, no? E poi ci vuole altro, per esempio, benissimo, chi pensa alla creazione. Tutto questo per raccontarvi adesso una storia. Qui vedete i due trucchi. Le parole sono difficili, ma le traduciamo, e tra l'altro dal fondo non si vedono, quindi io faccio che dirvele. Allora, vedete le dimensioni della sessualità umana. Sulla destra ci sono questi tre grandi momenti creativi, questi tre grandi passaggi dell'evoluzione. Cervello del serpente, rettiliano. Il cervello limbico, che è il cervello delle emozioni e della socialità, che condividiamo per esempio con il nostro cane, che è un animale sociale, emotivo, affettuoso e che costruisce dei forti legami con noi. Tutte queste cose noi ce le troviamo pronte, ma già fatte molto prima della nostra comparsa sulla faccia della terra. Mi spiego? E difatti col cane ci mettiamo molto ben d'accordo, anzi a volte ci facciamo curare da lui. Sapete la pet therapy, no? Il cane ci regola le emozioni, perché è più capace di stare nelle situazioni di quanto lo siamo noi certe volte. Beh. E poi finalmente la novità, la nuova corteccia, la neocorteccia, che è il luogo del cervello dove prendiamo le decisioni, pensiamo, diamo significato alle cose. Così. Vediamo com'è andata. Beh, è andata così, che all'inizio c'era la dimensione riproduttiva. Sesso viene da secatus. Diviso. Quindi il tema stesso dovrebbe unire. Certo. Perché secatus che cos'è? è un codice genetico intero, metà, dividiamolo in metà. Poi questa metà dice da solo non basto e va a cercarsi un'altra metà, un altro codice secatus. Allora un sesso e un altro sesso si incontrano e fanno ciò che il sesso porta di nuovo nel mondo, si mescolano. E mescolandosi fanno cose nuove. Questo è il bello della sessualità, che ci porta a mescolarci e a fare sempre cose nuove. Qui trovate anche parole più semplici, quelle da dire a casa, a qualunque costo. La dimensione riproduttiva, regolata dal cervello più antico, quello che ci salva la vita, è quello che ci fa riprodurre, funziona con questa prepotenza. Non sentire ragioni, tu riproduciti. È successo a Carlotta. Carlotta ha 17 anni e viene in consultorio a chiedere aiuto perché è incinta. Sta male, male, male. È una ragazzina meravigliosa, brillante, veloce, intelligente, simpatica, che vorremmo tutti avere come figlio. Ed è confusa e angosciata. Io non le ho subito chiesto di raccontarmi della sua gravidanza, perché mi sembrava troppo immediato come discorso, e le ho chiesto: raccontami un po' di te. E lei ha tratteggiato dei piccoli quadri molto precisi sulla sua storia. E ha incominciato a dire: purtroppo sono una brava ragazza. Era arrabbiata, era un purtroppo molto di protesta. Brava ragazza cosa vuol dire? Le ho chiesto. Brava ragazza vuol dire parrocchia, scout, danza, volontariato, prima della classe. Va bene, manca nulla, no? Brava ragazza davvero. Tra l'altro riuscendo a far bene tutte queste cose, no? Anche riuscendo a tenerle tutte insieme. Cazzata nera dell'essere una brava ragazza, proprio non si sopporta come brava ragazza. Vabbè. Mamma, no, mamma un grande bene mi vuole, lo dice convinta, e dice sì, però abbiamo un problema con mamma, anche lei è tutta volontariato, tutta impegno sociale, sto parlando di cose meravigliose, però lei dice non siamo mai al momento giusto, al posto giusto, nel senso che quando io ho bisogno di mia madre sicuramente è stata da qualche altra parte, e quando io sono lì che mi faccio i fatti miei, lei viene e dice Carlotta dobbiamo parlarci, no? E dice mamma, lascia perdere, no? Io ti parlo quando ne ho bisogno. Quindi sono due meraviglie di persone radicate nella comunità ma completamente desincronizzate, cioè non si incontrano. E questo la fa soffrire. Papà è un grande chirurgo, è un chirurgo famoso. E le brillano gli occhi d'amore. Non è quell'amore descritto, come dicevo prima, dalla psicanalisi in un modo un po' complesso da capire, cioè non ha voglia di sesso con suo padre, però ne parla come un'innamorata, ok? Le brillano gli occhi d'amore e lo liquida, sibilando una frase durissima, e dice, mio papà passa il suo tempo a salvare gli altri, ok? E li salva davvero, lei dice, adesso sono io che sto male, mio papà è in sala operatoria a salvare qualcheduno, va bene? Però ne parla bene. E poi mi dice del suo fidanzato, e quando parla del suo fidanzato ha gli occhi spenti, opachi. È un ragazzo molto più grande di lei, ha 17 anni e lui sta facendo l'ultimo anno del Politecnico. E io le chiedo cosa non va bene questo ragazzo. Lei sente la mia domanda e lo difende con forza e dice no, perché va tutto bene, cos'è che non deve andare bene? Insisto un po' e mi fa una concessione, mi dice no, forse è che è un po' noioso. E così si capisce perché, insomma, cambia lo sguardo mentre ne parla. Vabbè. Detto questo, io provo a chiederle con una frase che può sembrare giudicante, invece tutto il tono della voce, il gesto era soltanto amorevole e accogliente, e gli ho detto ma che cosa avete combinato? E mi guarda e dice no, il bambino non è suo. È dura, eh? E allora le ho detto, adesso mi racconti tu, io non so andare avanti. E lei mi ha detto, glielo spiego, e ha cominciato a piangere, e lì stava male. Mi ha detto, io sono arrabbiata, lei ha detto, più semplicemente io sono incazzata. E parlava il suo slang, e sono incazzata e volevo fare cose un po' diverse, no? Insomma, ci intendiamo che voleva trasgredire un po', no? Vuole andare un po' contro. E il fatto che lo faccia a 17 anni invece che a 40 è meglio, tutto sommato, no? Perché tenendo, cioè fa meno disastri a 17. E allora prova a mettersi d'accordo per andare in discoteca. Io stupito, ma proprio così a cortocircuito, ho detto, ma perché non sei mai andata in discoteca? Dice, no, ci andiamo in discoteca. Però poi mi ha spiegato che l'affittano tutta con gli scout, e allora non vale, cioè non è proprio è un'altra roba. E vabbè. E d'accordo, e allora va in discoteca e fa un errore strategico. Va in discoteca con una del giro brave ragazze, e quindi con un'altra inesperta di discoteca, no? L'effetto fa due foche in discoteca che non sanno come ci si muove. Cioè, è molto difficile starci dentro. Però, siccome non immaginano di frequentare regolarmente la discoteca, fanno il secondo errore e fanno il pacchetto completo. Si ubriacano, si fanno di quello che gira in discoteca e ballano tutta la sera. Con questi tre sistemi, due chimici e un altro di movimento, ma chimico lo stesso, alterano lo stato della loro mente, ok? E fanno un'operazione molto pericolosa, che adesso vediamo. E dico, che è successo? È successo che uno, ma bello, mi dice, dico, beh, almeno. Cioè, ma bello, bello, lei in realtà ha detto uno strafico, no? Mi ha tacchinata tutta la sera e poi siamo usciti e abbiamo fatto sesso. Io le ho detto, vabbè, come si chiama lo strafico? Lei mi guarda e fa, non lo so. E qui ritorna un altro passo della Genesi. Vi ricordate quando Dio accompagna l'uomo, Adamo ed Eva, no? E gli fa vedere il mondo? Dice, guarda che cosa ho creato, no? Ed è compiaciuto, no? E poi gli dice, ecco, adesso voi darete il nome a tutto ciò che c'è in questo mondo, a tutti i viventi, ok? Darete il nome. Dare il nome vuol dire portare nella realtà e continuare a creare. Cioè, Dio affida all'uomo il compito di dare all'uomo dandogli un pezzo di creazione da continuare. E loro non si creano, non si portano nella realtà. E difatti il commento è, tutto quello che è successo non c'entra niente con me. È vero, non c'entra niente con Carlotta, perché non l'ha neanche realizzato, non lo ha fatto diventare un incontro. Erano proprio due corpi con un po' di emozioni che si sono congiunti, ma non hanno neanche riconosciuto l'altro. Quindi hanno tradito il mandato, dai senso, dai nome, e attraverso il nome riconosci, e attraverso il riconoscere genera e dà senso alle carezze. Tutto questo non c'era in Carlotta. E Carlotta è rimasta incinta. Questa è la storia dolorosa. Poi questa storia particolare è anche andata in un modo stranissimo. Dico stranissimo perché di solito una ragazza in quelle condizioni interrompe la gravidanza. Lei poi per ragioni molto complesse, ma sostanzialmente per una ragione, perché non c'entrava con se stessa e voleva che invece c'entrasse, e questa volta molto sostenuta dalla sua famiglia, ha deciso di portare avanti questa gravidanza e praticamente ha avuto un figlio fratello, nel senso che, insomma, se ne sono poi occupati molto i suoi genitori. Ma questa è una conclusione completamente atipica, cioè dal consultorio normalmente procedono in un'altra direzione, ok? Questo perché poi lei il senso invece lo voleva conservare e ha scelto di conservarlo così. Poi non so. Detto questo, però, che cosa è successo a Carlotta? Carlotta ha creato uno stato alterato di coscienza grave. Tanto grave da dimenticare tutto ciò che sapeva. Lei l'educazione sessuale la poteva fare ai suoi compagni. Tante cose sapeva. Come non le avesse conosciute. Okay. La parte dove sa si disconnette dalla parte antica che le dice tu fai, tu agisci. Adesso così, detto così, sembra brutto. Immaginate che questa storia venga raccontata capovolta a Quark, da Piero Angela, che vi fa vedere quanto è potente e meravigliosa la forza della vita. Se cambiate prospettiva, fate i complimenti al serpente, cioè ci riesce sempre. Cioè tutte le volte che prova, no, prende una smagliatura nella coscienza e va dove vuole. Perché questa osservazione? Vabbè, Carlotta poi l'ha rielaborata così, in un suo modo speciale. Perché di quel figlio siamo un po' colpevoli tutti noi. Le ragazze normali, quelle meno ai primi posti, sono molto più competenti in una discoteca e hanno molto più chiaro a quali rischi stanno andando incontro. Poi qualcuna non c'inta lo stesso, qualcuna si prende l'epatite, insomma un po' di pasticci se li fanno accadere, ma sono state portate a conoscenza di questa parte. Noi abbiamo spiritualizzato la sessualità di Carlotta, l'abbiamo portata tutta in alto, è tutta corticale, è tutta consapevolezza. E lei non può governare una cosa che non sa di avere, lei è stupita di avere dentro di sé qualche cosa che non ha niente a che fare con l'idea che ha di sé. Qui noi abbiamo mancato. E allora dalla storia di Carlotta e dalla sessualità riproduttiva nascono tante indicazioni che poi studieremo, proveremo a capire come usare. Però, ecco, tanto per darvi due idee di partenza molto semplici. Prima di tutto facciamo conoscere a ognuno, bambino, adolescente e anche adulto se arriviamo tardi, il serpente che abita in lui. Se non lo conosce non lo governa, ok? E gli va bene soltanto fin quando usa gli automatismi, le buone pratiche che gli abbiamo insegnato, ma dopo non lo governa più. Facciamoglielo conoscere, presentiamoglielo, ok? No? Basta, no? Un po' di rabbia a cortocircuito, quando dite, ma sembri una vipera. Appunto, sembri una vipera. Non rispondi con un ragionamento, no? Rispondi con un movimento del corpo, no? Uno spintone. Uno spintone, tante volte i bambini fanno così, ma aspetta, no, pensa, ma gli dici di spostarsi. No? Allora lui si sposta, dopo se non si sposta gli dai lo spintone, no? Quindi vedi che c'è dentro di te una forza forte. No? Adesso però facciamo conoscenza e poi vediamo di governarla, di diventarne padroni, che alla fine vuol dire sono padrone di me, includendo tutto me in quella padronanza. Noi invece spesso facciamo l'errore opposto, che non gliela faccio conoscere che non sta bene, roba brutta, roba di bassi fondi. Se per caso deve conoscerla, gli insegno a reprimerla. Non si riesce. È un tentativo fallimentare, mi spiego, o a negarla. Ecco, queste sono vie pericolose e sono vie perverse che ci rendono responsabili degli insuccessi alla Carlotta. Non basta. Te lo presento, te lo faccio conoscere, ti presento il mio, così sai che anch'io ho un serpente dentro, un cervello antico, lo vedi, no? In certi momenti mamma come fa, papà come fa, serpente in azione. Tutti abbiamo i nostri momenti deboli, le nostre vulnerabilità, piacere, dobbiamo conoscere. E poi dopo ringraziamolo, benediciamolo, parliamone bene, diciamone bene, apprezziamolo, ok? Perché se ne parliamo male diventa ingovernabile lo stesso, ok? Non accetta un discorso negativo. Tra l'altro non fa niente di male, fa quello che deve. Mi spiego, siamo noi che possiamo dare un senso speciale a questa forza antica, ma non è brutta, sta tra le cose create con il commento era cosa buona. Quindi possiamo solo parlarne bene. Proviamo a fare il discorso al contrario. Immaginate di avere nel vostro letto una persona molto gentile, forse un pelo ossessiva, no? Però molto gentile e molto attenta a voi, che voi dite, ma finalmente uno attento, no? Che uno arriva e fa, e vabbè. Però troppo attento, no? Perché dice, guarda, io adesso ti devo accarezzare, però tu dimmi dove vuoi che ti accarezzi, e voi dite, ma fa un po' tu, insomma, no? Ha un problema. Dice, no, guarda, io voglio essere preciso, ma non voglio sbagliare. Tu da... no, dammi delle indicazioni giuste, io farò. Dice, ma solo prova le spalle. Ah, le spalle, non le dici che non ti piace. No, le donne vogliono farsi sempre massaggiare le spalle, io avevo un'altra idea. Le spalle, va bene, come te le accarezzi? Vado bene, dammi dei feedback, no? Allora, dopo un po' voi gli dite, senti una roba, tu fai così, tu prendimi come ti viene, se fai dei guai io ti avviso, va bene, così, andiamo più lisci, più di me. Dicendo prendimi, dite, lascia perdere i ragionamenti, stacca sto cervello da questa parte e usa il serpente, che è meglio. Perché se togliete quella parte dalle carezze, le carezze diventano sceme, ok? Non hanno più sapore, non hanno più colore, come direbbero i toscani, diventano sciocche, senza sale, ok? Quindi ne parliamo bene, anche perché porta bene in tutti i nostri incontri, ovviamente se addomesticato, se gli facciamo fare quello che vogliamo. Una piccola anomalia, la prima anomalia, ci sono sempre tante anomalie, io vi dicevo storia della vita, storia nostra si assomigliano, qui no. È evidente che la spinta riproduttiva parte tardissimo. E i bambini? Ecco, adesso proviamo a parlare un pochino dei bambini, no? E cerchiamo di capire cosa fanno i bambini prima che si inneschi un meccanismo biologico che dice a delle ghiandole che stanno alla base del nostro cervello di dialogare con altre ghiandole che stanno nella pancia o in quel sacchettino che si chiama scroto, e che a loro volta poi cambiano il cervello. Cioè, quando si attivano mandano segnali al cervello e il cervello non è più quello di prima. Vedremo poi cosa succede. E ci viene voglia di riprodurci, mentre prima no. Questo era un percorso da cui è iniziata la sessualità nel mondo, ma che non è l'inizio della nostra sessualità. I bambini non hanno intenzioni riproduttive. Ma tra un attimo vediamo che i bambini invece giocano il sesso. Prima di iniziare a parlare dei bambini, volevo chiedervi soltanto due notizie. Se io racconto così, mi faccio capire, è abbastanza chiaro quello che sto cercando di dire? Funziona? Sì. Ecco. Se vi sono venute in mente delle critiche, delle obiezioni, delle testimonianze, eccetera, è il momento. Perché se no io riprendo a parlare diventa difficile. Certo, all'inizio è difficile rompere il ghiaccio, no? Però faccio un'altra domanda allora, solo per prenderci le misure e poi andare avanti tranquilli. Se parlo così offendo qualcuno o offendo qualche suo modo di pensare a cui è particolarmente legato? No. Magari anche sì, ma sono qua, quindi in qualunque momento ne parliamo, mi rendo responsabile. Vediamo allora i bambini. Poi mi fermo davvero e parliamo, facciamo anche poi un attimo di pausa in mezzo, perché forse 3 ore di fila sono troppe. Allora, bambini, qui vedete un'altra dimensione, la dimensione ludica, altra parola, un po' di quelle da mettere nei congressi. Ludus in latino vuol dire gioco, da cui ludica, non è niente di strepitoso. È quello che la gente chiama fare sesso. No? Adesso poi ci arriviamo. Partiamo da lontano, però, e qui seguiamo proprio una storia. E magari in questa storia verranno anche proprio delle domande, o dei dubbi, o delle incertezze, così poi finalmente incominciamo a raccontarci un po' le cose. Vediamo cosa fa un bimbo quando viene al mondo. Vabbè, lo sappiamo, prima di tutto piange, poi prova a succhiare e a mangiarsi la mamma, poi dopo fa la cacca, e quindi fa la cacca, siamo contenti perché vuol dire che almeno quel pezzo funziona, e poi dopo dorme, quasi tutti, dipende, ma insomma, alcuni meno, ma insomma, in teoria dovrebbero mangiare, fare la cacca e dormire. E poi hanno dei momenti intermedi. E in quei momenti intermedi fanno una cosa molto semplice e molto bella. Giocano. Poi dite per intrattenersi, anche forse, ma per fare una cosa molto più importante. Noi veniamo al mondo col cervello da finire, non è ancora costruito, è solo avviato, abbozzato. E per costruire il cervello ci vogliono nutrimenti, il latte che io mangio da latte, va bene? E poi ci vuole gioco, senza gioco il cervello non si costruisce e il bambino muore, anche se è nutrito, tenuto al caldo e curato, va bene? Si spegne. E quindi è indispensabile, e tra l'altro questo gioco lo può fare in modi diversi. Un po' lo fa con se stesso, col suo corpo, che è già un gioco con cui si trattiene. Un po' lo fa con gli altri, per esempio con chi lo tiene in collo, chi lo tiene in braccio. Okay? E poi anche con i giochini, che sono forse la cosa meno importante, ma servono anche quelli, perché gli danno un po' di stimolazione in più. Di base, se non ci sono i giochini, bastano le persone. Ok? Quindi, il mio corpo è un grande gioco, avventuroso, bello, interessante, e il corpo degli altri, e poi tutto ciò che facciamo insieme, ci scambiamo. Okay. Quando diventa un po' più grande e diventa un po' più autonomo nei movimenti, si interessa molto anche al corpo degli altri bambini, e nello specifico anche ai bambini dell'altro sesso, perché vuole cominciare a capire come mai alle bambine manca un po', manca qualcosa, eccetera, no? Perché non è obbligatorio che poi le bambine siano invidiose di quello che ha un bambino, questa è anche una fantasia interessante ma non così necessaria per comprendere la loro sessualità. Detto questo, per moltissimi anni, dalle nostre parti, intendo sicuramente, insomma, Torino, Mondovì, Cuneo, eccetera, ma estendiamo la cultura cosiddetta occidentale, per molto tempo ha professato con forza un'idea che i bambini non hanno una sessualità, quindi non hanno una vita sessuale. Da altre parti del mondo era chiarissimo che invece i bambini hanno una sessualità, eccetera. Tenete conto di un fatto non banale. Nei nostri libri di filosofia si parla di sesso in qualche riga, in qualche pagina. In altre parti del mondo un terzo del libro è sulla sessualità. Okay, e quindi è molto sbilanciata la nostra cultura rispetto al discorso sul sesso, è sbilanciata in perdita, a ribasso. E tra le varie idee c'era questa, i bambini giocano ma non hanno una sessualità, okay? Non fanno giochi maliziosi. E qui dobbiamo dire di nuovo grazie a Freud, Freud ha detto no, giocano e hanno una vita sessuale. E su questo ormai siamo tutti d'accordo. Non ci voleva molto rendersene conto, ma la cultura ci filtrava lo sguardo, no? La cultura è importante perché non ci insegna solo che cosa è vero, cosa è falso, ci forma un modo per guardare le cose e difatti non lo notavo. Qualcuno bambino strano lo faceva e glielo impedivamo. L'altro giorno a lezione all'università ho detto che quando io sono nato mi mettevano le fasce e hanno detto: cosa vuol dire mettevano le fasce? No? E non avete mai sentito parlare dei bimbi in fascia? Dice, ah sì, i bimbi in fascia. Vuol dire, no, che non esistevano i pannolini. Mi spiego. E quindi che si usava un altro sistema, le fasce. Provate a mettere una mano dentro alle fasce per giocare col pisello, vedete che effetto fa, no? No, per dire, gli accessi non erano esattamente gli stessi, non era tutto così facile. Ma roba di altri tempi, dell'antichità, mi hanno detto, no? Cioè, questa è una roba antica. Sì, vabbè. Testimoni di un'epoca. Vabbè, detto questo, studiamo sto gioco. Quindi anche fa un bimbo. Un bimbo appena riesce a coordinare i segni che prende dal mondo, le percezioni e i movimenti, anche lì ci vuole un attimino perché le due cose si organizzino, devono mettersi in contatto dei neuroni e fare dei circuiti stabilizzati. No? Appena riesce a fare quello, incomincia a esplorarsi il corpo. E trova un mucchio di cose carine e poi qualche cosa ancora più carina, o comunque carina in un altro modo. E fa due classificazioni diverse. Distingue le sensazioni sessuali da quelle non sessuali. Okay? Non le nomina, non parla, non fa classi come noi facciamo, no? Nelle nostre ricerche. Semplicemente organizza il cervello a distinguere questi due modi di sentire il suo corpo quando lo tocca. E poi, essendo un bambino sano e di buon umore, cosa fa? Quando è lì che non ha molto da fare, tocca le parti del corpo che gli danno più piacere, che gli danno più soddisfazione, che sono più spiritose. Infatti, se vedete un bimbo che si tocca lungo un gomito, incominciate a dire deve avere qualcosa, no? Se si tocca il pisello, dite vabbè, è furbo, ha scoperto un gioco, no? Siete molto meno preoccupati, più normale. Vale anche per la patatina delle bambine, eh? Cioè non sono solo i maschi che si toccano, maschi e femmine, tutti. No. Adesso io potrei dirlo con un'altra parola che mette inquietudine. Se un bambino si tocca con la mano, manus, no? E si tocca per provare piacere, il piacere che cerca è della classe, piaceri birichini, speciali, divertenti, cioè sessuali, questo bambino si masturba, ok? Perché masturbazione viene da giocare con la mano per procurarsi piacere, questa è l'origine etimologica della parola. Dite no, almeno si masturba, dai. Vabbè, diciamo che si tocca, così togliamo la parola masturbazione, che sembra poco carina. In realtà si masturba, ma allora cosa fa? Fa qualcosa di sbagliato? No. Ecco, questo è il primo punto. Tante volte una mamma, un papà, vedono che un bambino si tocca, e si tocca con gusto, lo fa spesso, e sono preoccupati, e dicono ma cosa sarà? E poi si domandano come mi devo comportare, dovrò intervenire, dovrò magari limitare un po', no, questa cosa, o limitarlo del tutto, no? Che appena se ne accorgono lo fanno ma di nascosto, no? Insomma, quella è un'altra cosa. E allora no, è uno dei giochi che fa crescere, che aiuta il cervello a costruire mappe, cioè a tenersi dentro il corpo, le sue sensazioni e le emozioni che si connettono alle carezze. E quindi è meglio un giorno incontrare un altro, saremo grandi, avendo una mappa di noi stessi, se no potremmo avere paura, sentirci smarriti e non saper neanche tanto bene cosa dirgli rispetto a noi. Mi spiego, quindi avere fatto la mappa è utile, il cervello lo prevede. Per cui noi potremmo provare a dire, un bambino che si tocca e trae soddisfazione dal suo toccarsi, fa una cosa buona, utile e sana. E qualche altra volta invece non è così. Per esempio perché non impara a farlo per conto proprio. Perché ci sono dei giochi che noi facciamo con il nostro corpo, ma mentre li facciamo mandiamo segnali agli altri. Per esempio, un gioco sessuale manda segnali sessuali. Allora se lo faccio quando sono piccolo, va bene. Tra l'altro, tenete conto che la risposta del corpo, proprio la reazione fisica, è simile a quella di un adulto. Ai maschietti viene l'erezione, il pisello diventa duro, e alle bambine si bagna la vagina, si bagna la patatina. Ok? Proprio come poi succederà a papà, ma come succede a papà e mamma, succederà loro quando sono più grandi, non è uguale la sensazione mentale, tutta diversa, mi spiego, è la sessualità di un bambino, ok? Però il corpo è già pronto a rispondere, solo che al bambino non escono i semini come poi succederà da grande, no? Tutte queste cose un giorno potremo anche provare a spiegargliele se ce le chiede. Qui ce le teniamo a disposizione. Qualche volta però, no, non è così, non va affatto bene. Perché non capisce dove e quando. Allora, i bambini imparano a rendere privati alcuni loro giochi, alcuni loro comportamenti, alcune loro esperienze anche per conto proprio. Pensate al percorso della cacca, non so se avete mai fatto caso, se l'avete analizzato. No, la prima cacca è una festa, perché appunto funziona. Poi, una volta capito che funziona, diventa la cacchina bella del mio amore, e va bene, e quindi è ancora socializzata e vista bene. Qualcuno dice, tu sei strano, poi vedrai. No. Aspetta, avere un bambino e capire. Puzzano da morire anche loro, però insomma. E poi un giorno, novità, ancora molto sociale, la fatta nel vasetto. Questo è da celebrare, allora telefonate anche alla nonna, che a volte mi riserva una sorpresa, dice, ah sì, volevo dirtelo, l'ha già fatta ieri con me, no, che è un po' di competizione, no, che, insomma, ma per dire che è una roba sociale, no, cioè è ancora tanto pubblico, no, tanto che è motivo di telefonate, discorsi, racconti, eccetera. Poi con la storia del vasetto, Pian piano lo traslochiamo dal tinello, dalla cucina, in bagno, no? E allora va bene, lui si porta ovviamente tutte le attrezzature del caso, che sono ogni tipo di marchingegno, sta lì del tempo, e poi sentite l'urlo nella sera che da noi, a casa nostra, era "ho finito", no? Ho finito, di solito più o meno quando finisce anche un film, eccetera, non vorrei sapere quando va a finire. Allora, alzate, andate, e fate un gioco bello, no? Che è un gioco di tenerezza, di coccole, eccetera. Poi lo svertite, eccetera. E qui un altro passaggio. Poi un giorno è andato a fare la cacca regolarmente nel suo vasetto e non lo sentite più. Dite, che è successo? Allora andate a vedere di là e lo trovate in camera sul letto che gioca qualcosa. Ma non avete andato a fare la cacca? Sì. E non l'hai fatto? Sì, perché? Ah, no, non hai chiamato. E allora? Benissimo. Fai da te. No? Non ve la dà buona, il giorno dopo chiama perché ha capito che si era perso qualche cosa. Però, insomma, poi si fanno delle trattative, dai che sei grande, ce le puoi fare, eccetera, eccetera, e finalmente si privatizza. E sì, ve l'ho raccontata un po' da ridere, però è una storia di tutte le famiglie, no? Che segna dei passaggi, eccetera. Fino al momento tragico in cui vi rendete conto che sta cambiando tanto, perché voi, normalmente, mentre lui è lì che fa la cacca, entrate in bagno a prendere qualcosa, e lui dice, non si bussa in questa casa, no? Che vuol dire che ha ancora un altro pezzo, no? Di privatezza, no? E dice, facendo i fatti miei, almeno avvisa che stai per entrare, no? E li vedete proprio crescere, crescono lì sotto gli occhi, un po' dispiace persino, no? Perché se ne sta già andando, eccetera. Ma di fatto, insomma, poi... E qualche volta non succede così sui giochi sessuali, ci sono maestre disperate perché in quinta elementare ancora no. Spesso c'è una difficoltà che può essere un ritardo mentale, anche lieve, no? Qualche volta c'è invece un disturbo più nello sviluppo affettivo, emotivo, eccetera, eccetera, però è un segno. E questo segno va studiato bene, ovviamente molto prima della quinta elementare, quando tutti gli altri bambini già si sono organizzati nel privato e il nostro bambino ancora no. Ci ragioniamo su un pochino e se non riusciamo a venirne a capo ci facciamo dare una mano da chi insomma si occupa di queste cose. Allora gli specialisti diventano utili, no? Perché tutto il resto abbiamo fatto noi, no? Ce la siamo cavate egregiamente, ha funzionato, il cervello loro e il cervello nostro messi insieme fanno buone cose. Qui invece c'è un'anomalia e allora la teniamo da parte, ok? Non è banale il numero di comportamenti non privatizzati a scuola, non è così trascurabile ed è uno dei problemi da capire. Parliamo soprattutto della materna, no? Ma qualche volta la cosa si prolunga e diventa ancora più difficile da gestire. Se però lo fa di buon umore, ogni tanto, quando ne ha voglia, nel posto giusto, al momento giusto, boh, detto in modo semplice, lasciateglielo fare. Se lo regola da solo, da sola, maschi e femmine allo stesso modo. Devo invece darvi adesso due notizie meno belle. Ed è molto importante ciò che facciamo noi genitori e insieme a noi gli altri adulti che si prendono cura dei nostri figli, quindi eventualmente gli insegnanti a scuola o qualcun altro che magari può essere la nonna o può essere un vicino di casa che ne tiene a turno tre o quattro, così insomma riusciamo a organizzarci per la spesa, insomma quello che è. Qualche volta vediamo che i bambini si toccano e non sono per niente allegri, non sembrano goduti. Non state a scrutarli troppo, però intercettate per un attimo l'espressione che hanno e capite che c'è qualcosa di diverso da quel bel gioco di cui abbiamo parlato così bene. Qualche volta i bambini con la masturbazione, cioè quando si toccano, si consolano. E hanno capito che funziona. Sono dei bambini tristi, sono dei bambini spaventati, sono dei bambini arrabbiati che non possono esprimere e manifestare la rabbia, e ci sono dei bambini annoiati. Sono quattro stati d'animo molto dolorosi per un bambino, soprattutto se gli adulti non lo riconoscono e non vanno in soccorso, non gli sono vicini in qualche modo, cercando di risolvere. Allora i bambini fanno da sé. E fanno la cosa più semplice che hanno a disposizione, cercano di portare un po' di piacere in quel momento triste. E la cosa che costa meno fare è allungare una mano e toccarsi. E la cosa funziona poco, perché per un attimo, sì, triste, spaventato, non angosciato, non funzionerebbe con angoscia, impaurito, spaventato, arrabbiato, ma che si tiene dentro la rabbia, e poi annoiato. Sono bambini pieni di cose in camera, annoiati perché manca l'unico gioco importante che è essere in relazione con qualcuno. E quindi dopo un po' che giocano si annoiano. E questa noia fa danni importanti. E non è comprandogli un gioco in più, è togliendo un'ora ai nostri impegni che facciamo qualche cosa per loro, antinoia. Okay? Vabbè. Queste quattro emozioni si giovano di una carezza che fa star bene. Quanto dura il beneficio? Pochi attimi, da qualche secondo a qualche minuto, e poi di nuovo la tristezza, la rabbia, la noia. E allora mi riaccarezzo. E poi di nuovo. Fino a quando queste carezze diventano quasi necessarie e io sviluppo una dipendenza da un piacere che mi procuro perché sto male. Bene. Questa dipendenza, voi dite, è psicologica, certo che è psicologica, ma tutte le dipendenze psicologiche sono anche chimiche. Perché cosa fa quel bambino quando si tocca e sta bene? Cambia la chimica del suo cervello, ed è questo che gli dà un po' di soddisfazione, per cui il cervello poi vuole di nuovo quella soddisfazione. Okay? Quindi distinguere tra le sostanze non è una grande idea, vi sono sostanze che prendiamo direttamente, già confezionate, ce ne mettiamo dentro al corpo, e altre che produciamo noi con il nostro cervello, ma l'effetto è sempre quello, che il cervello poi ne ha bisogno perché sta male. Okay? E allora sviluppiamo dipendenza. Fino a quando ci sono dei bambini che si toccano svogliati, e quindi stanno snaturando le loro carezze, che erano nate per essere allegri, contenti, per giocare, per star bene, e le mettono al servizio del loro dolore. E quindi sviluppano una dipendenza che quasi li costringe, fino a quando addirittura, siccome dicono forse starò male, mi tocco già un po', che così, ok? E questo è esattamente quello che facciamo noi adulti con altre dipendenze, compreso il sesso, mi spiego. E questi bambini, sì, può avvenire in tutto l'arco della vita, di solito questo tipo di esperienza lo si legge bene dopo il primo anno, però potremmo trovare dei modi di toccarsi turbati anche precedenti al compimento del primo anno. Okay? Normalmente, insomma, tra il sesto e l'ottavo mese e l'anno incominciamo a vedere giochi che si strutturano in questo modo e che si strutturano bene nella versione A e che invece sono segno di un bambino sofferente nella versione che stiamo descrivendo. Per capirlo, dice un'altra mamma, per capirlo dobbiamo coglierne l'espressione, direi ancora di più lo sguardo, però molta attenzione, non possiamo fissarlo negli occhi perché è insostenibile per noi e per lui questo sguardo, mi spiego? Deve essere proprio soltanto un monitoraggio veloce, no? Come passare e dire ma che gli sta succedendo? Sta bene? Fai. Non sta bene? Devo parlarne. Ok? Poi lo capite perché è vostro figlio e oltre allo sguardo e all'espressione manda un mucchio di segnali che avete imparato a leggere, che uno straniero non sa leggere. Ma noi, se siamo attenti, capiamo di che umore è un bambino, per come si mette, per dove si mette, per i tempi che insomma, ha tutta una serie di suoi riti che cambiano e in qualche modo, diciamo, è strano. C'è qualcosa che non va, ok? Molto prima di avere un ragionamento disponibile, sentiamo che qualche cosa non va. A questo punto chiediamo aiuto, ma anche soltanto in famiglia, poi andiamo dagli specialisti. Prima regola, non mettiamo le mani sulla loro sessualità, mettiamo le mani in senso metaforico, che vuol dire? Non cerchiamo nel sesso di quel bambino la spiegazione a ciò che sta facendo, cerchiamola nella paura, nella tristezza, nella rabbia non espressa e nella noia. Ok? Quindi consideriamo il sesso solo un sistema che lui usa per affrontare un altro problema. E diffidiamo di chi invece sessualizza la spiegazione di questo comportamento, perché ci sta portando fuori strada e sta anche mettendo nei guai il nostro bambino. Ok? Tra l'altro i bambini sono fatti per star bene e hanno meno detriti che pesano nella loro vita di quanti ne abbiamo noi vecchi. Okay? E quindi appena di un bambino capite perché sta male e gli proponete un'alternativa, questo bambino torna a star bene, insomma, si riorganizza subito, è contento, dice, ho finalmente capito, io da solo non sapevo come fare, facevo così, ma adesso che mi fai giocare, adesso che mi consoli, che non ho più paura, che mi dice, arrabbiati pure, mi condelitto a arrabbiarsi, no, poi vediamo come, eccetera, ma fai, tira fuori, ok? Vabbè, allora lui funziona. E vedete questo bisogno, no, di toccarsi per consolarsi che si scioglie e ritorna a toccarsi con gusto. E quello lasciamoglielo fare, che non è pericoloso. Anzi, è un buon segno, è tornato a fare quello che funziona. Se non ce la facciamo da soli, perché il problema non è tanto come fare, ma è capire qual è l'emozione che lo disturba, allora chiediamo aiuto, non parlare. Pediatra. La psichiatra infantile fa già paura, ma insomma, a volte è un pediatra che studia le cose da un altro punto di vista, se è bravo, mi dice, ma sì, dai, vediamo un po' che cos'è che lo disturba, e ci diamo da fare. Ok? Psicologo dell'età evolutiva, fa meno paura del neuropsichiatra. Insomma, sceglietene uno che vi vada bene, soprattutto che vi dà fiducia, e ne parlate un po'. E poi l'ultima cattiva notizia, poi facciamo una piccola pausa. Questa è brutta però, e mi spiace rovinarvi la serata, ma mi tocca parlare. Mi racconto direttamente un dolore grande, brutto, che ho vissuto io personalmente, mentre parlavo con una paziente. Questa paziente era una nonna. Una nonna, mi va di dire giovane perché aveva la mia età, okay. E va bene, e, cioè 57 anni, una ragazzina, e in qualche modo mi ha messo in condizione di non sapere come fare a stare con lei, perché io ho visto tanto dolore nella mia vita, poi anche ne ho vissuto io, ma insomma me ne portano tutti i giorni, tanto. Però questa signora ha pianto per quasi 40 minuti di seguito senza fermarsi. Io non sapevo più come stare, più cosa fare. Stavo lì. Non c'era nessun modo per consolarla e lei ha pianto. Poi a un certo punto forse non aveva più lacrime, direbbero i poeti, e insomma ha smesso. E mi ha detto, credo di aver fatto un guaio. E ho detto, signora, mi racconti cosa è successo? E lei mi dice, le devo dire una cosa terribile, si rimette a piangere, ma parlando. La mia nipotina, e ne parla come del gioiello più prezioso che c'è sulla faccia della terra, cioè ha veramente lo sguardo che si illumina pur nelle lacrime. La mia nipotina era da me questa settimana, è venuta 3 giorni dopo che è successo, spaventatissima. Era da me dopo essere stata una settimana al mare con mia figlia, la mamma di questa bimba, è il suo nuovo fidanzato. Questo nuovo fidanzato lo dice con una smorfia sul viso, non le piace. Me l'hanno lasciata, io contentissima, si vedeva, non c'era più che lo dicesse, e si sono fatti un'altra settimana al mare loro per conto proprio. Okay. E io ho fatto il bagnetto a sta bimba, no? Ma è una cosa che facciamo sempre quando viene da me, perché a lei piace. Anche a me, e così le faccio un po' di coccole, e lì si mette a piangere, dice, ma forse sbaglio tutto, perché io poi le faccio il solletico, le do i bacetti, le metto il borotalco, no? Perché? Ad avere, no? Di quei solletici e dei bacetti che uno se li porta nella memoria e dice, che bello. Vabbè, mentre facevo questo, la mia nipotina ha sbarrato gli occhi, si è aperta la patatina con le mani e ha detto, nonna, fammi la foto. Ecco, questa è una scena lacerante che dovrebbe farvi stare tutti molto male, perché è racconto di un abuso sessuale subito da questa bimba. Io non posso darlo per certo, però vuol dire che ve lo do al 99,9 periodico per cento, cioè è praticamente certo. E vi spiego anche perché. Perché questa bimba, e questa nonna molto precisa, molto attenta, ha mostrato, e la nonna ha riportato, tutti i segni clinici di un trauma recente e di un abuso subito. E per quanto una bimba potesse avere anche voglia di allontanare quell'uomo dalla sua mamma, e potesse anche avere intuito da una lezione fatta alla materna, in cui le hanno spiegato che ci sono delle carezze cattive, da distinguere da quelle buone. Quando uno si sente accarezzato male, deve subito andare dalla maestra o dalla mamma e dire: mamma, qualcuno mi tocca, come a me non piace. Potrebbe aver detto: dai, usiamo questo, così facciamo fuori il fidanzato della mamma. Però una bimba di 4 anni non è una clinica esperta. E ha messo tutto, tutto insieme. Ha messo lo stato alterato di coscienza severo, che è caratteristico di un disturbo dissociativo di una bimba di 4 anni. I disturbi dissociativi sono quando noi non siamo interi. Un pezzo di noi è lontanissimo da un altro pezzo di noi. Ha messo un gesto ipersessualizzato, cioè ha mandato la sua sessualità addosso alla nonna con forza, quando erano tutti giochi lievi, belli, graditi. E poi ha anche messo una scena che è molto difficile da simulare, se è qualcosa che non è accaduto. Questa bimba in realtà era diventata anche molto agitata e aveva tutto un correlato di sintomi anche psicosomatici. Non era più attenta, era sempre inquieta, eccetera, e quindi mostrava disagio, e sono altri segni forti di trauma appena subito. Qualche volta non è così forte la scena come quella che vi ho raccontato. Però voi potete vedere un terzo modo di toccarsi dei bambini. Il primo è quello furbo, vispo, divertito, soddisfatto. Il secondo è quello triste e svogliato, di cui dicevamo prima, e non c'entra la loro sessualità. Il terzo è questo modo fuori di sé, è come se non ci fossero, spesso esagerato. Un bimbo che ogni tanto giocava col suo corpo, adesso è come se ve lo facesse vedere apposta, è come se vi tirasse dentro a questa scena dentro alla quale non capisce nulla, non sa che cosa sta succedendo. Ecco, questo terzo sguardo richiede un immediato intervento a difesa di questo bambino. Purtroppo è molto difficile fare questo immediato intervento perché i bimbi a 4 anni non sono come Cappuccetto Rosso, non attraversano da soli il bosco. Quindi purtroppo le uniche persone che possono aver agito così sono tra le persone che si prendono cura di lui. Qualche volta addirittura sono in famiglia, ed è ancora più doloroso crederlo e intervenire. Ed è il motivo per cui c'è un sommerso di abuso sessuale subito che fa paura. Lo raccogliamo nei racconti dei pazienti adulti, e c'è un numero inquietante di storie che contengono questi abusi, sempre vissuti tra la realtà e la fantasia, perché ci si dissocia davvero, mi spiego? E mai potuti raccontare e condividere perché non creduti, ok? E quindi, ma neanche ci si prova tante volte. E sono ferite nell'anima, che se tutto va bene lasciano cicatrici dolorose. E qualche volta sono ferite nell'anima che fanno persino fatica a rimarginarsi. Cioè, il danno di un abuso è un danno grave. Sorveglianza alta. Io vi ho dato questi tre modi di toccarsi, proprio per avere la possibilità di fare una valutazione comparativa, perché tante volte un bimbo che si tocca ci turba solo un po' e noi cerchiamo di non farci caso, ma se non ci facciamo caso perdiamo i segnali che ci manda e non possiamo più proteggerlo. O se tutta la masturbazione è in qualche modo un disturbo, non sappiamo più distinguere le cose buone dalle cose che non vanno, mi spiego? Allora lo sforzo che possiamo fare è dire: d'accordo, toccarsi fa bene, a condizione che si sia di buon umore. Qualche volta invece è soltanto un modo per consolarsi, dobbiamo aiutare questo bambino a non aver più bisogno di consolarsi, e qualche altra volta è il segnale d'allarme rosso per un grave, pericoloso trauma per la sua vita. Non vengono mai violati fisicamente questi bambini, cioè non c'è violenza fisica, però è più che sufficiente l'uso scorretto della loro sessualità, perché traumatizza in modo importante. Allora, se noi riusciamo a guardare i giochi dei bimbi con queste tre lenti, con questi tre punti di vista, li stiamo proteggendo. Uno, vabbè, lo lasciamo fare, cresce, se lo regola lui, per molto tempo smette, poi riprende. È molto vario il percorso che fa un bambino, non ha tabelle precise in questo senso. E gli altri due invece no, richiedono intervento. E sul terzo chiedete subito aiuto a qualcuno che con competenza e serietà vi sia subito di sostegno, perché è dolorosissimo anche soltanto dover prendere atto che può essere successo qualcosa. È ovvio che la mia speranza è che qui non ci sia nessuno che è stato toccato così da bambino, ma la mia quasi certezza è che invece non è vero. E se qua siamo 150 persone, purtroppo qualcuno di noi questo se lo sente nella carne ed è anche difficile ascoltarlo. Speriamo ancora di più che nessuno dei nostri bambini sia in questa situazione, ma una cosa è certa, che alcuni dei nostri bambini sono a rischio. E speriamo che non sia mai successo nulla, ma su questo dobbiamo sorvegliarli. Okay? Sorvegliarli vuol dire stare molto attenti alle persone di fiducia, purtroppo, e cogliere tutti i loro segni. È l'unica speranza per interrompere questa catena. Okay? Poi se volete, ma non adesso, vi racconto di qualche ricerca che stiamo facendo sulle persone che abusano dei bambini, per capire come mai qualcuno si comporta in un modo così grave e così disturbato nei confronti dei nostri bambini, e per non cercare un mostro, ma per cercare una persona sofferente, purtroppo di una sofferenza che si trasmette sulla generazione successiva, e quindi che andrebbe proprio interrotta. Ma solo la conoscenza interrompe questi giochi. Per questo ho dovuto dirvi delle cose così dolorose e mettervi così di cattivo umore. Dopo torniamo a parlare di cose belle, eh? Facciamo soltanto un po' di pausa adesso.